get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, questa sera siamo in studio Pina ed io, che sono Lucilla. Questa è la 56esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Questa volta vogliamo farvi sentire la storia e le iniziative di un altro gruppo separatista che opera nell'Italia del Sud. Il gruppo si chiama Le Desiderande, e cioè coloro che desiderano e al tempo stesso sono desiderabili. Noi le conosciamo da tempo, abbiamo fatto vari lavori insieme e alcuni progetti, abbiamo lavorato insieme per esempio alla settimana lesbica, al convegno e agli incontri tra separatiste. Questa intervista l'abbiamo fatta ad Immaginaria, che è stata l'ennesima occasione di incontro con le amiche e le compagne di Bari. E niente, vogliamo presentarvele perché fanno delle iniziative molto interessanti per quello che riguarda le vacanze, gli spazi vacanze. Quindi sentite. Siamo sempre a Immaginaria, adesso ci incontriamo con Pina delle Desiderande di Bari. E la richiesta che facciamo a Pina innanzitutto è di dirci qualcosa del suo gruppo e come sono nate, come si sono trovate insieme, da quando. Ok, ciao a tutte e a tutti, e io sono Pina. Per quanto riguarda le Desiderande è un gruppo lesbico separatista che è nato, vive e opera a Bari. È nato nel più o meno intorno al 92-93. Con l'obiettivo di creare un punto di incontro, di aggregazione tra le lesbiche baresi, pugliesi e del sud, insomma, e nacque con l'idea di diventare un punto di collegamento. Infatti nacque come coordinamento delle lesbiche del sud. Un po' come la nostra storia, sì, praticamente. Sì. Probabilmente anche un po', sì, anche un po' guardando a Roma, probabilmente. E da qui poi, diciamo che l'obiettivo, non dico che si è ridimensionato, però l'abbiamo un po' più, come dire, tagliato poi sull'esperienza che abbiamo avuto a Bari, per cui di collegamento rispetto alle realtà pugliesi ne abbiamo fatto poco. Però in realtà in questi anni abbiamo fatto crescere il gruppo Bari, e portando con una serie di iniziative, soprattutto fatte su noi stesse e sulla capacità di metterci in gioco e di coinvolgere le altre. E in quest'ottica nacque nel 94 il progetto Masseria. Il progetto Masseria che nacque proprio dal desiderio di voler fare qualcosa per le lesbiche che però avesse un senso per noi, che era quello di stare bene insieme e di conoscere le altre, perché in quel momento un po' avevamo l'esigenza comunque di connetterci con le lesbiche, con i racconti vissuti delle lesbiche che vivono in tutta Italia, e per noi quello è stato e continua ad essere veramente un punto fondamentale di incontri, di conoscenze, di relazioni che hanno prodotto nel tempo anche altre cose. Noi quest'anno siamo alla sesta edizione della Masseria, che negli anni un po' è diventato uno dei nostri grossi progetti alla fine, nato appunto come da un desiderio che però fortunatamente direi è diventato qualcosa di più grosso. c'è una scadenza per prenotarsi eventualmente per queste vacanze che organizzate voi ogni anno ed eventualmente un vostro recapito telefonico al quale... No, dire anche qualcosa su come è progetto. E poi chiaramente se ci dai delle informazioni maggiori riguardanti a questo progetto. Sì. Allora, noi organizziamo, come ho detto prima, questa vacanza per sole lesbiche al sud, vicino Bari, sul mare. Penso forse la maggior parte di voi conosceranno Ostuni, che è la città bianca, sì, in provincia di Brindisi. Prendiamo in fitto una struttura, una masseria, che contiene più o meno una quarantina di donne, di lesbiche, e all'interno della quale in questa settimana noi insomma organizziamo tutta una serie di attività di giochi, di feste, di divertimento, di punti, anche di momenti di incontro in cui poterci confrontare e scambiarci delle idee. Quest'anno la vacanza è dal 20 al 27 agosto, da domenica a domenica, e per chi vuole prenotare, le prenotazioni, mi ha chiesto la scadenza delle prenotazioni, diciamo che orientativamente si parte da adesso fino ad esaurimento posti, per cui... E avete un recapito telefonico presso... Ma ovviamente sì! Anzi, abbiamo un recapito telefonico che è il nostro potentissimo telefono cellulare, adesso vi dico il numero: 0368 377 7784. E poi siamo anche noi delle lesbiche che viaggiano in internet, informatizzate, sì, e quindi abbiamo la nostra casellina di posta elettronica, che è desideranda è alla latina chiocciola hotmail.com. Senti Pina, e sappiamo che c'è anche un'altra iniziativa che fanno al sud, che fate come donne, e che può essere molto intrigante sempre per le vacanze, e se ce la vuoi dire. Sì, da questa esperienza della masseria è nato una collaborazione a Bari, in questo caso a Bari, con altre donne che non fanno parte del nostro gruppo, però che hanno voglia di, con le quali abbiamo collaborato e con le quali stiamo portando avanti un progetto che è loro, che però noi ci sentiamo di appoggiare, sì, perché proprio perché parte da lesbiche ed è rivolto a lesbiche. E loro propongono una fantastica vacanza in barca a vela. Solo donne? Solo lesbiche. Solo lesbiche, grande. Meglio ancora? Sì, in Grecia, con partenza da Corfù, e poi da lì si farà un po' il giro delle isole vicino, che sono vicine a Corfù. La vacanza in barca a vela praticamente inizia dai primi di agosto fino alla terza settimana di agosto, nel senso che, però mi specifico meglio, si prenota una settimana per volta, per cui la vacanza dura una settimana. Senti, ma è prevista anche l'arrivo di una lesbica inesperta che non sa andare sulla barca a vela, o devono essere per forza donne che già hanno fatto vela? No, è prevista la presenza della lesbica inesperta. Io ho già fatto questa esperienza con queste mie amiche, Valeria e Anna Maria, già per 2 anni. Io sono l'esatto esempio di lesbica inesperta, ma non ero mai andata in barca a vela. In realtà loro, Valeria è la skipper ed è molto brava, e anche istruttrice nazionale, e Valeria è la sua aiutante. Sono persone, sono lesbiche in gamba, che con le quali tra l'altro il divertimento è assicurato, perché sono delle gran mattacchione. Va bene. E allora dacci riferimenti. La barca a vela è un oceanic di circa 14 metri, può ospitare fino a 8 persone in cabine doppie. E per informazioni e prenotazioni bisogna chiamare allo 0347 660 7711. Bene. Allora non ci resta che augurare a tutte le lesbiche buone vacanze. Buone vacanze, grazie ancora. Grazie. Ciao. Ciao. Avete ascoltato dalla raccolta Women's World Voices, Sina Mali, Sina Deni, della cantante Kadia Nin, Francia Burundi. Ciao a tutte, sono Pina. Stasera abbiamo ricevuto da Milano il contributo di Daniela Ciriello circa la sua esperienza all'interno della linea lesbica Amica. Daniela è una psicoterapeuta che da anni opera all'interno di questo servizio. A noi è sembrato un approccio estremamente corretto e ci piace riproporvi questa esperienza. Vi ricordiamo che per contattare la linea lesbica Amica di Milano basta telefonare ogni giovedì dalle 19 alle 21 al seguente numero di telefono 02 29 52 1109. Counseling, ascoltarsi per ascoltare. Riflessioni sull'attività di aiuto telefonico rivolto alle lesbiche. Non è facile fare un discorso sul counseling rivolto alle lesbiche, perché poco, direi quasi niente, è arrivato a noi dalle altre esperienze. Non ci sono documenti scritti ed è difficile recuperare un'esperienza solo per via orale. Le riflessioni che vi esporrò sono frutto della mia attività di counseling nel consultorio dove lavoro e nella linea lesbica amica. Il counseling è un'attività basata su una relazione di aiuto. Ci si rivolge a consulenti per ricevere informazioni, consigli, indicazioni. Le relazioni di aiuto, anzi la relazione di aiuto, si compone di due elementi fondamentali. Che cosa significa aiutare e come mi rapporto alla questione posta in gioco. Posso dare un aiuto solo se riesco ad entrare in empatia, ma per farlo devo avere chiaro che cosa è per me aiutare e che cosa penso e sento in relazione alla questione lesbismo. Se, per esempio, io penso che vivere nel mondo come lesbica produce molta sofferenza, potrei avere nei confronti delle donne che telefonano un atteggiamento molto preoccupato. Se al contrario sono molto preoccupata di non dare un'immagine negativa della lesbica, allora potrei avere un atteggiamento molto superficiale, minimizzando i problemi altrui. È importante essere consapevoli del nostro pensiero, del nostro vissuto rispetto al tema e al problema che ci viene posto di fronte. Perché in questo modo possiamo prenderne distanza e quindi occuparci di quella persona considerando il suo problema e le sue difficoltà. Un atteggiamento molto preoccupato o molto superficiale può essere un modo, una difesa per non vedere e quindi non comprendere la domanda di chi si è rivolto a noi. Se la relazione di counseling è una relazione di aiuto, questo significa che siamo qui perché desideriamo aiutare le altre lesbiche. Perché vogliamo aiutare? Abbiamo in mente una direzione? Posso dirvi che cosa ha spinto me ad occuparmi di lesbiche. È come se aiutare le lesbiche a stare meglio permettesse anche a me di stare meglio. Se riesco a far superare il senso di solitudine e il disagio legato a questo, anch'io mi sento meno sola. Ho intorno a me una comunità di lesbiche più sane. Vedo circolare meno disagio e meno sofferenza. Aiutando le altre, aiuto me stessa. Avendo chiaro che il mio desiderio di aiuto arriva da un focolaio di disagio presente dentro di me, sarò meno distante dalla domanda e dalla richiesta di queste donne. Avrò maggiore capacità di identificazione. Per aiutare, devo essere in grado di ascoltare. La possibilità di essere ascoltata è già un aiuto per chi telefona. Molte non hanno mai raccontato ed è la prima volta che lo fanno. Sentire che c'è qualcuno che è lì appositamente per ascoltare è una prima dimensione di aiuto. Il passo successivo è cercare di capire che cosa mi si sta chiedendo, qual è il problema. Per capire ciò che mi si chiede, devo stare attenta anche a ciò che si muove dentro di me. A volte può capitare di provare antipatia o fastidio. Questo può spingere a giudicare chi ci sta di fronte. Talvolta le storie che ci vengono raccontate sono lontane dal nostro percorso, cultura, valori. Spesso veniamo a contatto con disorientamento e confusione. In questa situazione è bene avere chiaro quello che si sta provando, perché altrimenti rischiamo di proiettare o agire quel giudizio o quell'emozione sulla persona che abbiamo davanti. È meglio esprimere la propria emozione o il proprio pensiero, per esempio dicendo: non capisco quello che mi stai dicendo, aiutami a capire. Oppure: ho una storia molto diversa dalla tua, per cui mi riesce difficile capire in quale situazione ti trovi. Questo fa sentire ascoltata, ma non giudicata, e spinge a cercare la strada per farsi comprendere. Per credere nelle cose che stiamo dicendo e per aderire alle proposte che facciamo, quella donna deve avere fiducia in noi e per avere fiducia si deve creare una relazione. La capacità di ascolto è la base di questo tipo di relazione. Può capitare di andare in ansia di fronte a un problema che ci viene presentato. È probabile che le caratteristiche di una situazione vadano a toccare un mio punto debole, oppure può essere per me troppo pesante la sofferenza dell'altra. Se sono in ansia, difficilmente comunicherò disponibilità all'ascolto. Tuttavia, non sempre si può avere una risposta da dare. A volte è meglio comunicare che non si è in grado di rispondere, anziché dare una risposta dettata dall'agitazione che produrrebbe solo una sensazione di rifiuto. I nostri valori, i nostri comportamenti non possono essere quelli di tutte le donne che si avvicinano al lesbismo. Il nostro compito è cercare di comprendere che cosa ci sta chiedendo la donna che telefona. Se viene percepito un giudizio, la persona tende a difendersi, ad allontanarsi e a non sentirsi libera di raccontare. Comprendere non vuol dire aderire ai valori e ai comportamenti altrui. Vuol dire invece mettersi nella posizione di chi sa che se qualcuno si comporta in un certo modo avrà i suoi buoni motivi per farlo. Ciò non significa che non si possano esprimere delle opinioni o il proprio disaccordo, ma è bene farlo con la consapevolezza che la nostra esperienza può arricchire ed ampliare il punto di vista di quella donna. Ma non è detto che ciò avvenga. In sostanza, io ritengo che le lesbiche incontrino molto spesso il giudizio nel mondo ed altrettanto spesso dentro se stesse. È molto pesante trovarlo anche in un ambito che ha come scopi l'aiuto, il collegamento tra esperienze e il darsi forza a vicenda. All'interno di tutti questi elementi non ha un valore rilevante il contesto, la situazione ambientale di quella particolare donna. Possiamo fare delle proposte che devono essere calibrate con l'insieme delle informazioni che lei ci ha dato. Se diamo noi facilmente una soluzione, chi abbiamo di fronte non lavora e noi non riusciamo a capire qual è l'ostacolo che impedisce il cambiamento. A volte la richiesta di aiuto ci appare come una sequela lunghissima di lamentele, tutte volte a convincerci che, in effetti, non è possibile fare niente per uscire da quella situazione. Non è vero. Non c'è niente che non sia modificabile. Lo è almeno il punto di vista, l'angolatura da cui noi guardiamo il problema. La telefonata è un'occasione per un aggancio, perché spesso, dopo aver fatto il difficile passo di telefonare e nominare per la prima volta il proprio desiderio, la propria attrazione, la propria esperienza, segue un secondo passo che è quello di desiderare di conoscere altre lesbiche, di affrontare per la prima volta un luogo di donne, un locale, una discoteca, un incontro, un dibattito. Superata la paura di nominarsi, di dirsi, può essere superata anche la paura di viversi più liberamente. È bene, secondo me, mettere a frutto il nostro sapere in quanto lesbiche, cioè la nostra capacità di riflettere sul nostro essere nel mondo. Sono competente perché la mia esperienza di lesbica può essere simile a quella di altre donne come me, il loro desiderio simile al mio, le loro difficoltà simili alle mie, il senso di isolamento simile a quello che io ho provato. Non è casuale che per molte quella telefonata sia il primo momento in cui parlano di sé. Hanno scelto una lesbica per farlo. L'istituzione di una linea telefonica si propone di aiutare le lesbiche e contribuisce anche alla costruzione di una identità non più legata a connotazioni negative come la malattia, la diversità, l'isolamento e la paura. Questo è, in fondo, quello di cui tutte abbiamo bisogno. In questi 5 anni di attività della linea lesbica di Milano abbiamo visto tantissime donne chiamare, raccontare le proprie storie e poi arrivare agli incontri, alle feste organizzate da noi oppure ad iniziative di altri gruppi, intraprendere la conoscenza di altre donne, socializzare. Tutto questo ci fa pensare che offriamo un servizio utile, i cui effetti possono essere verificati. Forse l'efficacia del nostro intervento non è ancora apprezzata nella comunità lesbica e forse noi operatrici abbiamo una difficoltà di valorizzazione della nostra esperienza e dei risultati raggiunti. Noi ci auguriamo che questo incontro possa essere una preziosa occasione per iniziare un confronto sulle differenze, sulle similitudini e sulla qualità del nostro lavoro. La musica di sottofondo all'articolo Il counseling, ascoltarsi per ascoltare, della dottoressa Daniela Ciriello, è tratto dal CD Groovy Woman di Angela Beran. Que fala. Che avete appena ascoltato è ancora tratto dalla raccolta Women's World Voices. La voce era di Leila Pantel dei Mo Horizon Fit e il brano era Foto Viva. Mi è ricapitata in mano la bollettina di novembre-dicembre 99. quella dove sono state pubblicate due poesie inedite curate da Valeria Santini di Firenze, hai presente? Ma di quali stai parlando? Quelle che hanno scovato fra i fondi manoscritti delle biblioteche Laurenziana di Firenze e Nazionale di Parigi? Sì, sì, proprio quelle di due autrici note ai posteri, soltanto una come moglie di Dante Alighieri e l'altra perché amata da Ugo Foscolo, ma che in realtà furono due grandissime donne di lettere e poete. E che come al solito noi non sappiamo, perché se non ce le andiamo a scovare noi queste cose, figuriamoci se vengono da qualche parte pubblicate queste notizie. Bene, allora le vogliamo leggere? Io direi proprio di sì. E vai. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura e fui, per così dire, quasi rapita. Ah, quanto bella era e dolce e pura esta selva selvaggia e fiera e forte che al sol pensier mi viene una calura. Tanto amata che senza è solo morte, ma per trattar del ben che io vi trovai dirò dell'altre cose che io vo scorte. Io non so ben ridir com'io v'entrai, tant'era il desiderio mio a quel punto che fra le braccia sue mi abbandonai. Ma poiché il letto ambito fu raggiunto e cadde la sua veste dalle spalle, capii d'esser giunta alla mia meta, libera al fin dalle maschili balle. Allor fu la mia sete un poco queta, che nel lago del cor m'era durata la notte ch'io imparai fino alla zeta. Come anche lei, che con lena affannata usciva fuor del pelago alla riva e me baciava, rilassata e grata. Così l'animo mio, che ancor stupiva, si volse a retro a rimirar lo spasso che al fin m'aveva reso lieta e viva. Poi che i posato un poco il corpo lasso, ripresi fiato e dissi: ora son certa che nella specie il maschio sta più in basso. Beatrice, tu sei bella e ben più esperta. Lei rise e accarezzandomi nel volto, la strada sussurrò, talvolta erta avremo innanzi, ma meglio che uno stolto a cui dover lavare anco il calzino. Di Gemma Donati del 1288. All'ombra dei cipressi e dentro l'urne conobbi un tizio poco affascinante che declamava ognor di speme, morti e patria ed un amico suo e d'etere e grazie. Sovente a casa mia si trascinava e mi assillava assai nei pomeriggi chiedendomi d'amarlo, ahimè che noia. Non pago, di missive mi subissava ed io, così per garbo, lo ringraziavo e poscia le leggevo a tutti, amici e conoscenti. Ma lui non s'arrendeva certo e a piangere, a implorare continuava dicendo: vedi, io son sommo poeta e lode per contessa scrissi un tempo solamente nell'attesa di incontrare vera tua beltade. Contessa chi? Chiedevo io. Quella che cadde? Adunque tu stupì quel tapinello, la conoscevi? Per certo sì, ed anche Marzia, ed Alda, e la Leonarda, ed altre, molte e belle. Ed eravate confidenti amiche? Mi questionò, oppure in parentela? Assai ti sbagli, caro il mio poeta, volevo dirgli, ma per pietà m'astenni. E a lui, bassino, saccente e brufoloso, solo diversi era riuscito la conquista. Mentre io con donne amate belle e tante avea da sempre diviso letti e vita. Antonietta Fagnani Arese, 1803. La musica di sottofondo che avete ascoltato sulle poesie è sempre tratto dal CD di Angela Beran, Groovy Woman. Il brano che state ascoltando è Prospero Speak, tratto dal CD di Lorena McKennitt, The Mask and Mirror. Vi ricordiamo che potete telefonarci direttamente alla radio allo 0649 1750, oppure ogni mercoledì dalle 20:30 in poi allo 0668 64201. Potete inviarci anche un fax allo stesso numero telefonico. E vi ricordiamo anche che la nostra posta elettronica è clrbp@hotmail.com. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah.